Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 20 Paolo scorse varie parti della Macedonia e della Grecia, predica in Trode sino a mezzanotte. Ed essendo morto Eutico, giovinetto caduto dal terzo cenacolo, Paolo lo risuscitò, e scorsi varge paesi, chiamati a sé i sacerdoti di Efeso, gli esorta ad esser vigilanti nel governo della Chiesa predicando loro, che non l'avrebbero più veduto. Quietato che fu il tumulto, Paolo, chiamati i discepoli, e fatta loro un'esortazione, e detto addio, si partì per andare nella Macedonia. E avendo scorsi che paesi, e fattevi molte istruzioni, passò in Grecia, dove avendo passati 3 mesi, gli tesero insidie i giudei nella navigazione, che era per fare verso la Siria, e prese il partito di ritornare per la Macedonia. E lo accompagnarono Sopatro di Pirro di Berea, e dei Tessalonicesi Aristarco, e Secondo, e Gaio di Derbe, e Timoteo, e gli Asiani, Tichico, e Trofimo. Questi essendo partiti avanti, ci aspettarono a Trode. Noi poi facemmo vela dopo i giorni degli azimi da Filippi, e in 5 giorni li raggiungemmo a Trode, dove ci fermammo 7 dì. E il primo dì della settimana, essendoci adunati per ispezzare il pane, Paolo, che stava per partire il giorno di poi, parlava ad essi, e allungò il discorso sino alla mezzanotte. Ed eranvi molte lampade nel cenacolo, dove eravamo adunati. E un giovinotto per nome Eutico, stando a sedere sopra una finestra immerso in un profondo sonno, mentre Paolo tirava in lungo il sermone, trasportato dal sonno, cadde dal terzo piano abbasso, e fu levato di terra morto. Ma disceso Paolo, si gittò sopra di lui, e abbracciatolo disse, «Non vi affannate, l'anima sua è in lui». E risalito che fu, spezzato il pane, e gustatone, e avendo bastevolmente parlato sino all'alba, così si partì. E rimenarono vivo il giovinetto, e furono consolati non poco. Ma noi entrati in nave, andammo ad Asson per quindi ricever Paolo, impero che così aveva ordinato, dovendo egli fare quel viaggio per terra. Venuto che egli fu a noi in Asson, preso lui, andammo a Mitilene. E di lì fatta vela. Il di seguente arrivammo di rimpetto a Chio e il giorno di poi prendemmo terra a Samo, e nell'altro di giungemmo a Mileto. Impero che avea stabilito Paolo di trapassare Efeso, per non esser trattenuto poco o assai nell'Asia. Concio sia che si affrettava, a fine di celebrare, se gli fosse stato possibile, il dì della Pentecoste in Gerusalemme. Ma da Mileto, mandò a Efeso a chiamare i signori della Chiesa, i quali venuti da lui, e stando insieme, egli disse loro, «Voi sapete dal primo giorno, che io entrai nell'Asia, in qual modo io mi sia stato con voi per tutto questo tempo, servendo al Signore con tutta umiltà tra le lacrime, e le tentazioni, che mi assalirono per le insidie dei giudei, in qual modo io non mi sia ritirato dall'annunciarvi, e insegnarvi alcuna delle cose utili, sia in pubblico, sia per le case, inculcando ai giudei, e ai gentili la penitenza in verso Dio, e la fede nel Signore, nostro Gesù Cristo. Ora poi ecco, che io legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo, quali cose ivi mi abbiano ad accadere, se non che lo Spirito Santo in tutte le città mi assicura, e dice, che catene e tribolazioni mi aspettano a Gerusalemme. Ma niuna di queste cose io temo, né tengo la mia vita per più preziosa di me, purché io termini la mia carriera, e il ministero della parola ricevuto dal Signore Gesù, per render testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, che io so, che non vedrete più la mia faccia voi tutti, tra quali io sono passato, predicando il regno di Dio. Per la qual cosa vi prendo a testimoni in questo giorno, come io sono mondo del sangue di tutti. Concio sia che io non mi sono ritirato dall'annunziare a voi tutti i consigli di Dio. Badate a voi stessi, e a tutto il gregge, di cui lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio acquistata da Lui col proprio sangue. Io so, che dopo la mia partenza entreranno tra voi dei lupi crudeli, che non risparmieranno il gregge. E anche di mezzo a voi stessi si leveranno su degli uomini a insegnare cose perverse, per trarsi dietro dei discepoli. Per la qual cosa siate vigilanti, rammentandovi, come per 3 anni non cessai di, e notte di ammonire con lagrime ciascheduno di voi. E ora vi raccomando a Dio, e alla parola della grazia di Lui, il quale è potente per edificare, e dare a voi l'eredità con tutti i santificati. L'argento, e l'oro, e le vestimenta, di nessuno non ho io desiderato, conforme voi sapete, con ciò sia che è al bisogno mio, e di quelli, che sono con me, servirono queste mani. In tutto vi ho dimostrato, come in tal guisa lavorando, conviene sostenere i deboli, e ricordarsi della parola del Signore Gesù, poiché egli disse, è maggior ventura il dare, che il ricevere. E dette che ebbe tali cose, piegate le ginocchia, orò con essi tutti. E fu grande di tutti il pianto, e gittandosi sul collo di Paolo lo baciavano, afflitti massimamente per quella parola detta da lui, che non erano per vedere mai più la sua faccia. E lo accompagnavano alla nave. Note, 20,3, gli tesero insidie i giudei ecci. Questo stesso avevano fatto altre volte. 15. 33, 18, 21, 23. S. Luca non dice, qual modo tenessero i nemici di Paolo per averlo nelle mani, e forse anche per rubargli il denaro, che egli portava a poveri di Gerusalemme, ma dice, che avendone Paolo avuta notizia, si determinò a fare il viaggio per terra, almeno per quanto avesse potuto. 20,4. Sopatro. Tichico e Cisopatro è lo stesso nome, che Sosipatro, e Berea, sua patria, era città della Macedonia. Di Tichico fa sovente menzione Paolo nelle sue lettere. Degli altri compagni dell'Apostolo si è parlato di sopra. È probabile che di questi debbano intendersi quelle parole della 2. A Corinti, dove parla degli apostoli delle chiese gloria di Cristo, mandati dalle stesse chiese con lui per portare le collette a Gerusalemme, 2. Cor 8.23. Tra questi fu anche S. Luca, come apparisce da questo, e dal seguente versetto, 20,6, e in 5 giorni li raggiungemmo a Trode, e la significazione di queste parole è questa, che i compagni di Paolo non aspettarono il suo arrivo a Trode, se non 5 giorni. 20,7. Il primo di della settimana e la domenica, giorno consacrato alle adunanze cristiane, come dice il gran martire S. Giustino, e alla celebrazione dei sagri misteri, la qual celebrazione è indicata con le parole per ispezza il pane, come abbiamo veduto altrove, e così le hanno intese le antiche versioni e i padri. La cena del Signore era accompagnata dal convito di carità, come si vedrà meglio dall'epistola ai Corinti. 20,9. Stando a sedere sopra una finestra e dove è verosimile che si era egli posto per poter sentire il discorso dell'Apostolo, essendo pieno il cenacolo, e aperta la finestra per diminuire il calore cagionato dalla moltitudine della gente, e da tante lampane accese. Il giovinetto pare che cadesse non nel cenacolo, ma sì nella corte della casa, perché si dice che Paolo discese. 20,10. Si gettò sopra di lui, e abbracciatolo disse. L'anima sua è in lui. S. Paolo imita il fatto di Eliseo, 2 regione V 32, quando egli dice che il giovinetto era vivo, o era già seguito il miracolo, o S. Paolo ne parla come di cosa fatta, perché infallibilmente doveva succedere. 20,11. Avendo bastevolmente parlato sino all'alba. Non so, quel che sia più da ammirare, o la indefessa, e invitta carità dell'Apostolo, o la fame di questi cristiani per la parola di Dio, e la invincibile perseveranza nella orazione. Imperocché ambedue queste cose occuparono l'Apostolo per tutto quel lungo tratto di tempo, l'orazione non meno, che la predicazione avendo sempre accompagnato la frazione del pane. Le adunanze dei cristiani in giorno di domenica principiavano sempre avanti giorno, come si ricava da sicurissimi monumenti. Ma quando anche quella, di cui si parla fosse cominciata solamente verso la sera, ognun vede però, quante ore dovettero che buoni cristiani starsene adunati nel luogo della comune orazione. 20,13 Ad Assone ci città delle Olide, ovvero della Misia, chiamata anche Apollonia. S. Paolo volle fare questo viaggio a piedi, e solo e per spirito di penitenza, e per trattenersi più liberamente con Dio, e forse per prendere nello stesso viaggio tutte le occasioni di spargere la semenza del Vangelo. 20,14 A Mitilene, città principale dell'isola di Lesbo. 20,15 A Chio, isola situata in mezzo a quella di Lesbo e di Samo. A Mileto, città illustre della Caria. 20,17 A chiamare i signori della Chiesa, non solo della città di Efeso, ma anche dei luoghi vicini, fece venire i vescovi e i sacerdoti, come dice S. Ireneo, Lib 3. Capitolo 14. 20,18 E in qual modo io mi sia stato con voi e ci vale a dire, e in qual modo io mi sono comportato verso di voi nel mio ministero. 20,19 Servendo al Signore con tutta umiltà tra le lacrime e le tentazioni, e si rifletta un momento sopra questa maniera di parlare di un apostolo sì grande dopo tante conquiste fatte pel regno di Dio, ma si notino particolarmente quelle parole tra le tentazioni che mi assalirono per le insidie, dove un tanto uomo pone per fondamento della umiltà nella quale si era sempre mantenuto il timore di perdersi e di non reggere alle afflizioni, alle minacce, agli strapazzi, che quasi abbondante raccolta gli venivano da Giudei in ricompensa della carità ardente che nutriva per essi. Questo linguaggio e queste disposizioni di cuore non sono meno ammirabili che le vittorie riportate da lui sopra l'infermo, anzi sono elleno appunto il principio e il fondamento delle stesse vittorie. 20,20 Sia in pubblico, sia per le case. Affettuosa cura prendendoi di tutti e di ciascheduno in particolare. Imperocché uffizio del vero pastor della Chiesa è di imitare quanto mai sia possibile il principe dei pastori, di cui è proprio, come dice S. Agostino, di aver cura e di tutti come di un solo, e di un solo come di tutti. 20,21 La penitenza in verso Dio. E la fede, la penitenza, e la conversione di cuore, e il credere in Gesù Cristo, il quale giustifica l'empio mediante la fede animata dalla carità, sono quasi il compendio di tutto il Vangelo. 20,22 Legato dallo Spirito e per impulso, e comando dello Spirito Santo, il quale le azioni mie, e tutta la mia vita regge, e governa. Queste parole tendono a persuadere ai suoi uditori, che non cerchino di opporsi al suo viaggio come ordinato da Dio, e a mostrare, che se egli continua nella stessa deliberazione, dopo i consigli, e le predizioni dei profeti, e della Chiesa, ciò non procede né da ostinazione, né da disprezzo, ma sì da superiore autorità, alla quale conviene, che obbedisca. Non sapendo quali cose ci vale a dire, a benché lo Spirito, che mi ha commesso di andare, non abbia a me rivelato qual sia per essere l'esito del mio viaggio. 20,23 Se non che lo Spirito Santo è. Ma quello che lo Spirito Santo non ha rivelato a me, lo ha rivelato ai profeti della Chiesa, i quali per parte di lui in tutte le città dove io passo, mi annunziano e catene. E tribolazioni da soffrire in Gerusalemme. 20,24 Ne tengo la mia vita per più preziosa di me, e lo non fo più conto della mia vita, che di tutto me stesso. E sapendo che la necessità mi incombe di predicare il Vangelo, e senza perder me stesso non potrei tralasciare di farlo. I cor 9. 16. Sono pronto per una tal causa a dare anche la vita, purché io termini la mia carriera con Gaudio. Tale sembra essere il senso di queste parole. Il greco dice, ne è cara a me la mia vita, purché termini eci 20,25. Io so, che non vedrete più la mia faccia e sentimento assai comune, che contro l'aspettazione dell'apostolo volle Dio, che egli tornasse nell'Asia. Per la qual cosa queste parole furono dette da lui nella ferma persuasione che egli aveva di non potere umanamente sottrarsi ai pericoli, che gli sovrastavano in Gerusalemme, dove quegli stessi giudei, i quali egli aveva in ogni luogo provati nemici sì implacabili e furibondi, erano molto più potenti, che in ver un altro paese. Ma Dio altrimenti dispose contro ogni sua speranza. 20,26 Sono mondo dal sangue di tutti. Non sono cagione della perdizione di veruno, né chi perirà, per colpa mia perirà. 20,27 Tutti i consigli di Dio. Tutto quello che Dio vuole, che da ciascheduno di voi si faccia per il conseguimento della salute. 20,28 Badate a voi stessi e a tutto il gregge, di cui lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Pensate in primo luogo alla propria vostra perfezione, e salute, imperocché chi non è buono per se stesso, potrebbe gli essere buono per altri? In secondo luogo alla perfezione e salute del gregge alla vostra cura commesso. Parla qui l'apostolo ai vescovi di tutto il paese all'intorno di Efeso. Ma le sue parole si estendono proporzionatamente anche ai sacerdoti secondo la porzione loro assegnata delle funzioni e dei diritti pastorali. Egli dice che i vescovi sono stati costituiti dallo Spirito Santo, perché l'ordine episcopale viene dallo Spirito Santo. E dallo Spirito Santo ricevettero gli apostoli la podestà di consacrare dei successori nel loro ministero, per pascere la Chiesa di Dio acquistata da lui col proprio sangue. Abbiamo qui una illustre prova dell'unione delle due nature in Gesù Cristo, e di quella che i teologi chiamano comunicazione degli idiomi, ossia delle proprietà. Gesù Cristo vero Dio, e uomo, col sangue che sparse, che era sangue di un Dio, fe acquisto della Chiesa sua sposa. Quanto forte motivo è questo al cuor di un vero pastore per amare un gregge acquistato da un Dio a prezzo del proprio sangue. 20,29 Entreranno tra voi dei lupi crudeli, e per questi lupi vogliono intendersi gli eretici, i quali fecero infiniti mali alla Chiesa in che primi tempi. 20,30 E anche di mezzo a voi stessi e ci tra i fedeli stessi dell'Asia si leveranno su dei falsi apostoli, maestri di perverse dottrine, come Imeneo, e Alessandro, e Figello, ed Ermogene, per trarsi dietro dei discepoli. Gli eretici non cercano dei discepoli per Cristo, ma per loro stessi. 20,32 E alla parola della grazia di Lui. Abbiamo veduto in altri luoghi che la parola di grazia è il Vangelo, nel qual Vangelo brama l'Apostolo, che dopo Dio trovino i fedeli la loro consolazione e la loro pace, il quale è potente per edificare e per condurre a fine la fabbrica in voi cominciata della vostra santificazione, facendovi crescere continuamente nella fede. E frutti rendere di buone opere per poi farvi parte della eredità eterna nella società dei santi. 20,33 L'argento e l'oro. E ci Samuele si gloriava in faccia a tutto Israele di avere nell'amministrazione della giustizia conservate pure le sue mani dai donativi. S. Paolo si gloria di non avere nemmen voluto ricevere mercede alcuna per le continue fatiche sofferte nell'insegnare il Vangelo. 20,35 In tal guisa lavorando, conviene sostenere i deboli e, per coloro che sono ancor deboli nella fede, niuna cosa può essere maggiormente d'inciampo che il sospetto una volta concepito, che il ministro del Vangelo faccia servire a propri vantaggi la predicazione della parola. Quest'inciampo volle Paolo, che dal suo esempio imparassero a togliere di mezzo i prelati della Chiesa. Questa stessa massima di guadagnar col sudore del suo volto il proprio sostentamento, piuttosto che essere di peso, o di scandalo ai deboli, la vedremo anche meglio spiegata nelle epistole di questo apostolo. Il testo greco, dove noi diciamo convien sostenere, porta convien porgere la mano ai deboli, come per reggerli, perché non cadano. E maggior ventura il dare, e... Questa sentenza doveva essersi conservata nella memoria dei primi discepoli di Gesù Cristo, e ripetuta da medesimi come utilissima per accendere i fedeli a tutte le opere della misericordia e della liberalità cristiana. Il ricevere è contrassegno di povertà e di indigenza, il dare di abbondanza e di generosità, e questa generosità ben regolata ottiene l'affetto degli uomini e la mercede e la ricompensa da Dio nella vita a venire.